Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, buonasera, benvenuti a Smart City. È stato avviato da pochi giorni il primo impianto in Italia di biometano liquido, oppure BioGNL, che è lo stato attuale della tecnologia, diciamo che rappresenta anche l'unica possibilità concreta per decarbonizzare il trasporto pesante su gomma. L'impianto è entrato in funzione presso la società agricola cooperativa Speranza, un consorzio di aziende zootecniche nato nel 1974 a cavallo tra Candiolo e Vinovo, quindi in provincia di Torino, che è un caso esemplare, possiamo dirlo tranquillamente, di integrazione riuscita tra agricoltura e chimica verde, grazie soprattutto, diciamo così, al pieno dispiegamento della tecnologia del biogas. Allora ci facciamo raccontare di questa esperienza da Carlo Vanzetti della cooperativa Speranza. Buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera, grazie dell'opportunità. Dunque Vanzetti, ci spieghi allora come funziona questa produzione del BioGNL, quindi gas metano liquido, che però in questo caso è metano biologico. La produzione di questo BioGNL praticamente segue la produzione del biogas elettrico che oramai tutti conosciamo abbastanza bene, ma anziché trasformare il biogas direttamente in energia elettrica, il nostro sistema è un sistema criogenico, il biogas viene praticamente raffreddato. Il processo di raffreddamento, diciamo, è assimilabile a un processo che conosciamo tutti, quello di fare la grappa, no? Certo. Il gas prodotto nei digestori, nei quali vengono immessi l'etame, liquami, i sottoprodotti delle nostre aziende agricole, alcune colture dedicate, viene innanzitutto depurato dallo zolfo, che è un prodotto che si trova che avviene durante la fermentazione, sì, del biogas, sì, sì. Dopodiché avviene il raffreddamento a meno 40-50 gradi, viene subito estratta la CO2, condensa, che viene liquefatta. No, condensa la CO2, l'anidride carbonica diventa liquida e quindi la potete separare. Sì, viene separata, abbiamo predisposto due silos in cui viene immessa la CO2 e che ha come destinazione una parte una società di acque minerali vicina a noi e una parte l'abbiamo ceduta a una ditta di gas tecnici, una ditta italiana, la SICO in particolare, che è interessata ad avere questa CO2 rinnovabile. Secondo me questo è anche una cosa importantissima, perché non tutti sappiamo, fino a poco tempo fa non sapevo neanche io, che la CO2 viene estratta da sottoterra, no? Quindi andiamo, e mi sembra assurdo quando c'è la possibilità, certo, di averla. Certo. Di averne, no, in questo modo. Ecco, diceva, raffreddate, siamo arrivati a meno 50 più o meno, avete tirato, sì, fuori la CO2 che poi finisce nelle bottiglie da acqua, eccetera, eccetera, e poi andate avanti a raffreddare, no? Fino a... A meno 140, meno 140 gradi praticamente abbiamo il metano che viene liquefatto con la caratteristica di avere una purezza al 99%. Questo metano liquefatto viene immesso anche lui in un serbatoio di stoccaggio, dal quale verrà poi prelevato per avviarlo al distributore. Noi abbiamo un accordo con un'azienda che ha già 50 camion a BioGNL, crede in questo progetto e abbiamo chiuso un accordo decennale per la fornitura loro di questo carburante liquido biologico. Ecco, dicevo che siete biologico. un esempio del paradigma del biogas in agricoltura. Un suo collega qualche anno fa mi disse che il biogas era un po' l'anello mancante che serviva per rendere sostenibile ambientalmente ma anche economicamente l'agricoltura. E allora proviamo a raccontare, sì, no? Perché abbiamo parlato della produzione del BioGNL e della CO2, ma cos'altro fate voi anche storicamente a partire dalla produzione del biogas? Allora, noi storicamente i nostri padri hanno costituito Cooperativa Speranza nel 74, allora per vendere la carne genuina prodotta dai nostri allevamenti, non estrogenata, per venderla al pubblico. Abbiamo fatto quella scelta lì e di lì dove è nata Speranza. Nel tempo siamo andati avanti, abbiamo continuato a fare gli agricoltori, gli zootecnici, a produrre latte, produrre carne, e ci siamo accorti della possibilità che praticamente si aveva con le bioenergie di utilizzare e di risolvere tutti quelli che potevano essere dei problemi legati anche alla produzione del latte e della carne. Per noi praticamente quelli che erano gli scarti delle nostre stalle, lì per scarti intendo letame, liquame, culture dedicate che possono essere trinciato di sorgo, trinciato di triticale, che ci permettono comunque di coprire i terreni affinché non vengano dilavati. Mm-hmm. Noi ragioniamo di fare sempre doppie culture perché comunque il terreno rimane sempre coperto, e se anche ci fossero tante piogge, che non viene eroso, diciamo, certo, che la comunità europea premia questo discorso di avere comunque sempre anche i terreni coperti dalla vegetazione, che mentre copre il terreno assorbe anche anidride carbonica, la famosa funzione clorofilliana che abbiamo ascoltato quando facevamo nei banchi di scuola, certo, no? Quello che rimane dalla fine del ciclo riproduttivo, che sarebbe poi digestato, viene usato come concime nei nostri campi per far crescere nuovamente le nostre piante, che serviranno in parte per l'alimentazione delle vacche e in parte andranno comunque agli impianti come biomassa per gli impianti di cogenerazione del biogas. Questo è più o meno quello che facciamo. C'è da dire che in questo processo noi praticamente abbiamo ridotto del 90% l'uso di concimi chimici. Ecco, perché questo era un po'... che non è lontano il giorno che arriveremo a zero. Perché questo era un po' quello che mi veniva raccontato da questo suo collega un po' di anni fa. Noi con l'impianto a biometano potremmo produrre biocarburanti che potrebbero anche alimentare i vostri macchinari agricoli un domani, per esempio. Possiamo produrci fertilizzanti. Pensando seriamente. Ci sono un po' intoppi burocratici su questo, per poter utilizzarlo dovrei avere un senza distributore in loco. Senza evadere le tasse, è un casino. E ha dei costi. Però noi abbiamo già provato alcuni mesi fa un carro miscelatore, quello che serve per fare l'alimentazione delle vacche, alimentato a metano. Minerale ovviamente, perché era metano in bombole, certo. Però stiamo pensando seriamente a fare un discorso di questo genere. Grazie Vanzetti. Contribuisce comunque ad avere un'economia sostenibile e un territorio sostenibile. Grazie a lei. Cari ascoltatori, ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a domani. Buona serata. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.